in primo piano. Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questo appuntamento con le prime pagine dei quotidiani di oggi in edicola. Come sempre iniziamo dal Sole 24 Ore, Sole 24 Ore apertura su licenziamenti, proroga al 21 di marzo, così titola. La notizia la conosciamo, l'annuncio del Premier, esteso il divieto, nessun onere sulle aziende. Patuanelli, risultato frutto del dialogo, Catalfo dice segnale importante per i lavoratori. La cassa integrazione d'emergenza si allunga di 12 settimane gratuite per le imprese, indipendentemente dal calo del fatturato. La tornata di sussidi nella legge di bilancio va ad aggiungersi alle 6 settimane del decreto ristori, arrivando a 18 settimane complessive. Il blocco dei licenziamenti economici individuali e collettivi viene prorogato fino al 21 di marzo. Sono questi i punti qualificanti dell'intesa raggiunta ieri dal governo con i sindacati. Così l'incipit, ne parlano, ne scrivono poi i colleghi Pogliotti e Tucci nelle pagine interne dalla prima del Sole 24 Ore. Segnalo poi anche altri titoli, in particolare gli approfondimenti sulla pandemia in Italia. Covid, 31.000 contagi, rischio elevato in 11 regioni, più vicino il lockdown soft. L'intervista al CEO Kun Hu, regole certe per il 5G, qui stiamo parlando di smartphone e tablet ZTE che punta all'Italia, così appunto l'azienda cinese che si occupa di smartphone e tablet e di 5G, poi dopo si scrive. La notizia interessante per molti che hanno auto a metano, perché nei distributori debutta il rifornimento in modalità self-service, finalmente anche in Italia. E poi per l'approfondimento food che ogni sabato troviamo su Sole 24 Ore, DOP e IGP serve l'aiuto della grande distribuzione, ne scrive Giorgio Dell'Orefice. Vi segnalo anche che oggi con il Sole 24 Ore è in edicola, si acquista a parte, il superpotere della mindfulness. Anche i bambini possono coltivare la calma e l'attenzione per affrontare rabbia, ansia ed iperattività. È un volume di Barbara Franco che è particolarmente utile per i genitori di bambini in età prescolare, quindi parliamo di 3-6 anni. C'è una questione di ansia così che può essere di qualunque periodo dell'anno, ma c'è una questione di ansia legata ovviamente a questo specifico periodo, e il manuale va nella direzione di aiutare i genitori e i bambini a gestire per l'appunto ansia, stress, rabbia, per ritrovare maggiore calma. Oggi in edicola con il Sole 24 Ore, da oggi per la correttezza diciamo in edicola con il Sole 24 Ore. Andiamo al Corriere della Sera, grandi città verso la chiusura, questo è il titolo principale. A Milano è la situazione più grave. Duello con le regioni, rischio stop per le scuole, scrive il Corriere. Nella lista però ci sono anche Napoli, Roma, Torino, Bologna. Il balzo dei nuovi contagi, ieri 31.000, rimbalzo estivo del PIL, è la notizia che rimbalza per l'appunto sui quotidiani di oggi. Come abbiamo sentito anche nei nostri GR24, il rimbalzo è di un più 16,1%. Dalla prima del Corriere della Sera anche i licenziamenti, blocco fino a marzo, come dicevamo leggendo prima il Sole 24 Ore, e poi al centro pagina la foto notizia dedicata all'attacco nella Basilica a Nizza, i contatti in Sicilia, l'ipotesi di una rete jihadista, l'assassino di Nizza è stato in Italia fino a 7 giorni fa. Ne scrivono poi Giovanni Bianconi, Stefano Montefiori, Guido Olimpio, quindi tutti gli esperti diciamo così del settore del Corriere della Sera, le schede telefoniche, i contatti in Sicilia, la permanenza in Italia, l'arresto per una lite in Tunisia, i legami con Ansar al-Sharia. Gli investigatori ricostruiscono così il profilo di Brahim Awassawi, l'attentatore di Nizza. Come spesso negli ultimi giorni, Massimo Gramellini nel suo caffè è molto critico, in particolare con l'organizzazione, o meglio la mancata organizzazione dei trasporti nelle grandi città. Vi leggo giusto qualche passaggio. Ministri e decisori si affannano a ripetere che non hanno chiuso teatri, cinema e ristoranti per sfiducia nei loro sistemi di sanificazione e distanziamento, ma, scrive Gramellini, cito dal video di Franceschini, uno dei migliori, per ridurre la mobilità delle persone. Quindi non hanno paura che ci si contagi mangiando la pizza o guardando Shakespeare, ma mentre ci si muove per raggiungere i luoghi della pizza e di Shakespeare. Ci lasciano ancora uscire di casa solo per arrivare a scuola o in ufficio, ma ci vietano gli spostamenti che hanno un risvolto voluttuario. Salto qualche passaggio per arrivare alla conclusione, ma si sa come funziona la mano pubblica da queste parti, esosa nel pretendere il rispetto delle regole da parte dei privati e nel perseguirli, specie se sono deboli, ma estremamente lassista quando si tratta di pagare i suoi debiti e offrire servizi all'altezza di una nazione civile. Politici e amministratori hanno passato i mesi caldi a farci la predica mentre loro vivevano alla giornata e discettavano di banchi a rotelle. E adesso ci rinchiudono tutti in casa per manifesta incapacità di lasciarci uscire in modo decente, cioè con servizi pubblici efficienti e numerosi in modo tale da mantenere questo distanziamento fisico necessario. Andiamo alla stampa, tornano le zone rosse, negozi e scuole chiuse nelle regioni a rischio. Questo è il titolo di apertura. Di spalla la Francia si stringe alle vittime di Nizza, aprite le chiese, non cediamo alla paura. C'è un'intervista al pilota Ferrari Charles Leclerc. Leclerc, il Covid ci ha cambiato la vita, ai giovani dico di non essere egoisti. E la trovate nelle pagine ovviamente interne dedicate allo sport, aggrappati a Charles Leclerc nell'anno più difficile della Ferrari. Toccherà a lui, il principe arrivato da Monte Carlo, a 23 anni, già personaggio globale, modello per Armani, attore a tempo perso e milioni di follower su Instagram, riportarla a Ferrari dove merita. Così leggiamo l'inizio dell'articolo di Jacopo Dorsi, appunto, e poi l'intervista nelle pagine interne. Come evitare gli errori di primavera è il titolo dell'analisi di Alberto Brambilla su test e investimenti per battere il virus. Leggiamo, apprendiamo dalle pagine della stampa che Urbano Cairo è risultato positivo al coronavirus e che è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Paolo di Milano. Condizioni abbastanza buone, con una lieve febbre, per oggi atteso il primo bollettino da parte del San Paolo e viene curato, a quanto si legge, con l'ormai noto Remdesivir. Ma volevo leggervi dalle pagine della stampa piuttosto un approfondimento su nonni e nipoti, emergenza coronavirus. Sono dati su cui riflettere, inapplicabili, ne ha parlato anche il presidente francese Macron nel fare la sua conferenza in cui ha annunciato il confinamento per la Francia per il prossimo mese. Una delle misure, diceva, potrebbe essere quella di costringere a stare in casa i più anziani e i più fragili, inapplicabile, ha detto Macron. Ed è vero, però ci sono dati scientifici che diciamo dovrebbero almeno consigliare a chi è più anziano e chi è più fragile di stare in casa e di evitare il più possibile i contatti. Vi leggo questo articolo a pagina 7 di Niccolò Carratelli sulla stampa. Chi ha lavorato sui numeri sostiene che basterebbe chiudere in casa gli ultra ottantenni per dimezzare la mortalità del virus. Se poi si riuscisse a isolare gli over 60, i morti da Covid sarebbero 10 volte di meno, senza contare il relativo alleggerimento della pressione sugli ospedali, in particolare sulle terapie intensive. Guardandolo dal punto di vista dell'epidemiologo, una misura di contenimento estrema per gli anziani in linea teorica sarebbe la migliore, con un impatto economico quasi nullo, dice il professor Carlo Lavecchia, docente alla Statale di Milano. Per capirlo basta guardare la percentuale dei malati sopra i 65 anni, spiega. Il problema è che è inattuabile. In molti casi le forze dell'ordine sarebbero costrette a fermare le persone per strada per verificare l'età dai documenti. e comunque non uscire se non per estrema necessità non è sufficiente. Gli anziani devono limitare i contatti al nucleo familiare stretto, aggiunge la vecchia, devono rinunciare a vedere figli e nipoti o amici ed è un sacrificio necessario per salvarsi. Ma cosa fare con gli anziani che vivono soli, magari non autosufficienti? Questo è un aspetto centrale, soprattutto dopo gli 80 anni, avverte il professor Sandro Bernardini, sociologo dell'Università La Sapienza di Roma. Rischiamo di creare situazioni drammatiche se una stretta di questo tipo non viene accompagnata da un solido sistema di assistenza da parte di enti, associazioni, volontari. L'impatto generale, l'impatto sociale di un lockdown generazionale non può essere trascurato. Andrebbe organizzato in modo da non abbandonare le persone, garantire un minimo contatto con il mondo esterno. Troppo spesso, del resto, i servizi sul territorio sono carenti. Il sistema sanitario fa acqua da tutte le parti, attacca Ivan Pedretti, del sindacato dei pensionati della CGIL. Non risponde alle esigenze di una società invecchiata con gli anziani che rappresentano un terzo della popolazione italiana. E non va dimenticato il loro ruolo di welfare parallelo per figli e nipoti che verrebbe compromesso. L'articolo poi prosegue su misure che erano state prese simili, ricordo quella mi pare di Barcellona che consentiva agli anziani di passeggiare in orari specifici nel lungomare, in aree parchi e aree verdi, in orari in cui gli altri non potevano uscire, diciamo una sorta di uscite scaglionate per prendere aria. Non so poi che fine abbia fatto quel progetto, se ci sono dei dati specifici sulle risultanze di quella iniziativa. Andiamo alla pagina di apertura di Repubblica, il lockdown delle metropoli, questo è il titolo. Vi leggo giusto questo prima di dare spazio alle notizie sulla viabilità. I contagi oltre la soglia psicologica dei 30.000, l'Istituto Superiore di Sanità, 11 regioni a rischio, l'indice RT nazionale sale a 1,7. Governo diviso su serrate selettive in città e province dove il virus corre di più. Pressioni sulla Azzolina per chiudere le scuole. Infine, prima appunto della viabilità, l'analisi di Carlo Cottarelli, segnalo, l'economia rimbalza ma il debito resta. Spazio al traffico, a tra poco. In primo piano. E a questo punto andiamo al manifesto, il manifesto che come fotonotizia sceglie posto di blocco e si riferisce ai licenziamenti bloccati fino a marzo 2021, l'immagine è quella di una fabbrica con operai al lavoro. Per 5 regioni si apre lo scenario 4, scrive il manifesto, riferendo di tutti i dati della giornata di ieri, i decessi rimangono stabili, sottolinea. Nelle pagine interne volevo segnalare l'intervista a Cristina Mascheroni, che è presidente dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Lombardi. Allora, intervista di Francesca Del Vecchio. Dottoressa Mascheroni, quale soluzione si è trovata con la regione per far fronte alla carenza di medici? Risponde lei, nessuna. La riunione di mercoledì 28 si è conclusa con un nulla di fatto. Le proposte che avevamo presentato sono state ignorate. Ci aspettiamo un'altra convocazione all'inizio della prossima settimana. In caso contrario ci mobiliteremo. Viste le circostanze, uno sciopero sarà difficile, sperando che Regione non ne approfitti per ignorarci, ma stiamo pensando ad una manifestazione. Che cosa chiedete? Innanzitutto di non essere spostati forzatamente da un ospedale all'altro. La regione assicura che i trasferimenti saranno volontari, ma sappiamo che ci sono già alcuni spontaneamente volontari. È una condotta vessatoria che, se diffusa, sarebbe grave. Intende dire che alcuni medici vengono mobilitati dalle direzioni degli ospedali? Esatto, e a questo si aggiunge che non è stata comunicata la durata del trasferimento né le modalità di alloggio, per non parlare delle regole su orario di lavoro e turnover. Ci sono colleghi, penso a quelli del Policlinico, che hanno già iniziato nell'ospedale in Fiera e altri che inizieranno a breve. E perché si è arrivati a novembre? Ho saltato qualche domanda. Comunque, perché si è arrivati a novembre senza soluzioni? La risposta di Cristina Mascheroni, ricordo presidente dell'Associazione Anestesisti e Rianimatori Lombardi, è che durante l'estate la regione ha discusso con loro il piano di emergenza ospedaliero e ha definito quali hub sarebbero subentrati in base al livello d'allerta, per esempio la Fiera di Milano. Quello che non ha fatto è stato pensare alle modalità di reclutamento del personale, che già allora scarseggiava. Dal Pirellone, chiede Francesca Del Vecchio, assicuravano però che sono stati assunti dei medici. Specializzandi del quarto e quinto anno sono stati inseriti grazie al decreto del 9 marzo con contratti atipici legati all'emergenza Covid, ma è chiaro che non basta. Il punto è che di anestesisti non ce ne sono affatto e non è solo un problema di Regione Lombardia. Dobbiamo ringraziare, dice ovviamente ironicamente, una visione ministeriale miope che negli ultimi anni ha previsto poche o insufficienti borse di studio per anestesia e medicina di urgenza. Ed è una cosa che, come ben sappiamo, non si rimedia in pochi mesi, purtroppo. Andiamo a Quotidiano Nazionale. Quotidiano Nazionale, io ho l'edizione Il Giorno, ma ho visto anche La Nazione ed ovviamente al centro pagina ci sono i disordini a Firenze di ieri sera. Torna la guerriglia nelle piazze, sotto assedio il centro di Firenze, migliaia di attività escluse dagli indennizi. Monta la rabbia e il titolo è Senza pace. In marcia forzata verso il lockdown e poi dopo il titolo dell'apertura, i contagi superano la soglia dei 30.000, la Lombardia fuori controllo, no, non solo lei, però si sceglie di puntare sulla Lombardia nell'edizione Il Giorno. C'è poi un'intervista, per chi si vuole divertire e conoscerlo un po', all'inventore del mitico, famigerato anche possiamo dire, cubo di Rubik. Rubik, un genio al cubo, il mio gioco è arte pura. E dice Rubik, beato lui, che lui per risolvere il cubo ci mette più o meno un minuto. A 76 anni, aggiunge, non male per un vecchietto, vabbè, lui l'ha inventato, però certo, meno di un minuto è poca roba. La verità apre su il sussurro di Mattarella, scrive così, patrimoniale. Il capo dello Stato indica nel grande risparmio la base della ripresa. Giustissimo, gli italiani vanno incentivati a investire nei titoli pubblici anche per evitare le trappole dell'UE, ma il governo ha una tentazione pericolosissima, sostiene La Verità, mettere le mani sui nostri soldi. E ne scrive diffusamente il direttore Maurizio Del Pietro, a partire dalla prima pagina, appunto, in cui ricorda che in sé non si può non essere d'accordo con il Presidente della Repubblica a causa del Covid e della conseguente crisi economica. Servono soldi per sostenere la ripresa. Noi stessi già all'inizio della pandemia avevamo scritto qualche editoriale per sollecitare la classe politica a presentarsi di fronte agli italiani e di conseguenza ai risparmiatori con una proposta rigorosa e credibile di investimenti, ossia una specie di piano Marshall, scrive Belpietro, per l'Italia, chiedere ai cittadini di sostenere il proprio paese è di gran lunga meglio che decidere di indebitarlo. Ma appunto la paura, diciamo, che il timore che avanza Belpietro sulla verità è qualcosa di diverso, appunto la patrimoniale. Libero, lei non sa gestire il Viminale e l'attacco è diretto contro il ministro Lamorgese. Gentile signora Lamorgese, si dimetta, e lo scrive a stampatello maiuscolo. Brahimi, il terrorista di Nizza, ricevette a Bari il decreto di respingimento ma rimase libero. La ministra dell'interno se l'è fatto scappare, sostiene Libero, errore imperdonabile. Il governo però la difende e se la prende addirittura con Salvini. E qui questo è il tema di apertura che viene poi diffusamente elaborato successivamente. Avvenire apre con il titolo Scenario da lockdown. L'Istituto Superiore di Sanità parla di situazione critica in 11 regioni, chiede a Lombardia e Piemonte misure più stringenti. Altri governatori chiudono le scuole, Conte ci pensa, Azzolina resiste, licenziamenti fermi fino a marzo, ed è il riassunto di giornata. Ovviamente si parla molto su Avvenire dell'attacco di Nizza. Se ne parla sia in un editoriale di Andrea Lavazza sia nelle cronache. L'attentatore di Nizza, da alcol e droghe all'Islam più radicale. Brahimi Oussaoui, il 21enne tunisino che ha colpito a morte giovedì mattina a Nizza, era arrivato in città probabilmente da non più di 48 ore. Emergono alcuni dettagli della sua adolescenza a Tina, vicino a Sfax, segnata da alcol e droga, prima di una conversione religiosa 2 anni fa. La sua partenza dalla Tunisia potrebbe coincidere con la ripubblicazione a Parigi il 2 settembre delle vignette da parte di Charlie Hebdo. Il parroco di Notre-Dame, Don Parmentier, ancora sconvolto, dice: «Non chiuderemo la chiesa perché abbiamo paura». E tante persone, fra cui il presidente della comunità ebraica e alti esponenti del mondo musulmano, hanno scritto per dire che ci sono vicini che pregano per noi e sperano in un avvenire di pace per l'umanità. Il giornale a tutta pagina titola «Verso il lockdown», così per chiarire la sua posizione, sfondata quota 30.000 positivi, l'allarme degli anestesisti, ossigeno solo a chi si può salvare, ripercorre così il giornale, titoli che ricordo di avere letto in primavera, appunto sullo stesso quotidiano. Il Covid corre, ieri più di 31.000 contagiati con 215.000 tamponi, governo e regioni pronti a prendere provvedimenti più severi nei prossimi giorni e gli anestesisti preparano la guida per selezionare chi rianimare, ossigeno a chi ha più chance, una cosa che quando leggemmo la prima volta ovviamente ci impressionò, abbiamo purtroppo imparato a sapere che è così. Vi leggo l'ultimo titolo, quello del Fatto Quotidiano: un virus, tante Italie, ecco dove corre di più. Esclusivo le 10 province con maggiore incidenza dei contagi, tutte a nord-ovest. E noi ci dobbiamo fermare con questa rassegna stampa, ci ritroviamo alle 8.30 con Si può fare da Laura Bettini. Buon ascolto di GR24.